per Alvenna, non al senso dello stilo, mi dà distinguere. Ecco Adriano, scusami, io avrei voluto sapere da te, perché senz'altro lo sai, la misura completa montata dal punto base del pezzo che poi finisce con la in alluminio, in che inizia, dove ci sono i fori, dove ci vanno le staffe, ecco, da quella base alla punta, quanto è in tutto? Allora, l'importante, lo sa bene, è il radiatore, quello è poco ma sicuro, è 660 cm. Poi tutto quello che c'è sotto è molto variabile, perché se te ne taglia un pezzettino di tubo da sotto dal pezzo che serve solo effettivamente a bloccarla sullo stilo, o semplicemente si inserisce o di più o di meno l'isolatore. In vetroresina cambia la lunghezza. Io ho misurato 36 cm su un'antenna perfettamente risonante, 1,01 di stazionari, ce l'ho piazzata non sul tetto, però ce l'ho fatto come antenna di prova, a portata di mano, gli faccio tutte le misure che mi pare che piace. Sono 6,60 m di filo più 36 cm tutto il resto, dalla fine dello filo fino alla punta estrema di un pezzo d'alluminio. È una cosa, una misura relativa, quei 36 cm, molto relativa, perché dipende da come uno se la piazza, se ci mette più o meno isolante, ci sono dei blocchi effettivamente per l'isolatore del vetrolismo. Non è detto che uno ci rifila perfettamente, oppure lascia un pezzo in più, oppure dalla fabbrica ci sono 10 cm in più di alluminio, quello bucato con i bulloni. Lo faccio io, ho 36 cm in tutto, però valgono proprio niente per il funzionamento dell'antenna, non valgono niente perché non fanno parte dell'antenna quello. Io ho capito, là. Comunque mi sono preso questi dati, mi hai dato, e poi vado un attimino a misurare effettivamente tutti questi parametri per avere una ragione. No, sai perché? Perché io quando la smontai all'epoca la trasferì direttamente intiera come era, zavorrata, come avevo trasferito con un camion, e messa a dimora poi nuovamente come, e me la sono però ritrovata precisa, cioè non avevo nessuna sezione del genere. E quindi perché era nuova, poi quando sono successi questi fatti qui, che si è tutto quanto fidato eccetera eccetera, poi è chiaro che sono successe queste situazioni, però nella smontare, nel fare delle prove eccetera eccetera, abbiamo dovuto fare una piccola modifica nell'ultimo pezzo finale, che io sinceramente la misura non lo so, un attimo, ma dobbiamo farla così, l'abbiamo fatta così, ma la misura io non la so, e quindi abbiamo fatto così e mi sembrava giusta. Poi per quanto riguarda il mollone, che ho messo a 10, quello è già a 10 perché l'ho bloccato così eccetera, poi se tu mi dici che si può mettere a 6,60, vuol dire che farò così, poi vediamo. Tu non hai compreso un cazzo, visto? Tu ne devi tagliare 47 cm dallo stilo che ne ho aggiunto io. Basta, non devi fare altro con quell'antenna. Cazzo, 6,60 m, non è il radiatore, tu tagliami 47 cm dallo stilo che ho aggiunto io. Boh, ma devi fare? Lascia di un peso, no? Non ti arrabbiare, ho capito, devo tagliare quel pezzo di adesso, si tratterebbe sotto, perché sono curioso, adesso la prima cosa che dovrò fare, non lo so, se domani mattina gli metterò mano, perché sono talmente curioso per sapere questa storia qua, lo sai perché? Perché io ero arrabbiatissimo a un certo momento con questi accordatori, che uno non va bene, l'altro neanche, il mio invece un po' accorda, cioè il difetto qual è? Però il pelle scalda, vuol dire che eventualmente non sta andando bene. L'accordatore lo fai vedere. Comunque adesso guarda di tagliare quello stilo lì e guarda vedere quante stazionarie ti dà, sicuramente abbassano. Sì, sono convinto al 100% che come stai dicendo tu, per carità, è tutto si tratta di, però adesso vedi, sta andando bene, io mi ritrovo qua misurando, quando pulso il coso, che qua ci sto prendendo un cavolo, vediamo un po', adesso pulsando il, come si chiama, il tastino, non mi dà stazionare, mollo, N1 e 3. Comunque qui tagliano i 47 centimetri, il problema è che stazionare non ce n'è, e magari quello mi sta segnando male. Sì, anche loro mi sarà un po' sballato, però sono sicuro che facendo quel lavoro lì di quel taglio, perché non lo so, balla ogni tanto, cerca di salire, scendere, ma è sballato anche il rosso, qualche cosa ci avrà. Evidentemente sì. Prova a fare quella misura, che le misure ce le abbiamo esatte, noi le abbiamo ricavate adesso. E infatti per quello ti sto dicendo di tagliarne 47 cm per avere lo stilo giusto. Praticamente ti rimane il pezzo che dovevamo aggiungere e basta. Un pezzettino te ne rimane invece di tutto col baralabalabala. Ne tagli 47 cm giusti, perché ho fatto il conto ed è così. Sì, una volta che taglio poco pezzo ci metto il tappo e via, perché il cimino non ce l'ho più, dovrebbe andare bene. Non vedo l'ora proprio, mi deve arrivare. Guarda, domani mattina presto, mi alzerò presto, perché poi verso le 10 comincia a fare caldo e sul tetto non c'è proprio più salire. Infatti, o ti metti d'accordo con Antonello, ti fa aiutare 5 minuti, cazzo, andate, lo fate. È 47 centimetri. Come lo volete tagliare da quello stilo che abbiamo più allungato noi, perché un pezzo già ne mancava, l'abbiamo allungato per quello, non perché ne mancava un pezzo, quindi accordava in 10 metri con l'antenna, non in 27, una banda più su accordava bene. Esatto. Seguenti il Yaruzogu, e gliel'ho aggiunto per quello io il pezzo, infatti ce ne vorrà un pezzettino che ne avanzerà di quello nuovo che abbiamo messo, tu ne devi tagliare 47 cm da quello stile blu, tutto quello che avanza là e risa a chi vivo, capito? Gli metti il tappo tu, una volta che l'hai tagliato, e ce la rimetti sull'antenna, e vedrai che anzi, la puoi provare anche in terra, l'antenna lì. E vabbè, adesso a portarla in terra non conviene, conviene provarla direttamente sopra, perché poi viene male a portare su dal tetto con i radiali, poi si possono rompere un casino, conviene provarla lì stesso, cioè si abbassa e via. E la abbassi e ne tagli quel pezzo dello stile e poi ce la torni a salire, molto ci vuole. Sì, un gioco da ragazzi, si tratta soltanto che ci sono due persone, cioè uno a smuoverla perché fatta tipo il passaggio a livello, no? Una volta la sollevi leggermente perché ho due gaffe che sono attaccate, molli la gaffa, una, la sollevi e comincia a abbassare. Ce ne vogliono due perché altrimenti poi scivola e cazzo si casina e ci volevano mantenerla. Nel frattempo uno la mantiene, col giughetto, misuri, tagli, così che tino piccolino che abbiamo fatto quello lì, il prossimo non è fatta e la rimetti nuovamente sopra e subito sappiamo se funziona benissimo. Sì, ma è così, perché l'abbiamo allungato troppo lo stilo noi, capito? Perché era giusto la prima misurazione che ho fatto io, capito? Perché lo stilo io l'ho fatto 7,07 m, però 7,07 m è dalla base alla punta. Quindi lo stilo suo l'ha misurato, vediamo, è 6,60 m. E non vorrei bagliacchi, 47 cm ne devi tagliare, boh. Sì, ormai è fatta, dai, so queste cose qua, mi sono scritte le misure, non c'è ombra di dubbio. E possiamo passare addirittura oltre questa discussione con Adriano, che dovrò chiedergli come mi devo comportare con questo computer, siccome io ne ho due di computer, Adriano, scusami questi passaggi lunghi, però uno adesso mi è successo che siccome qui dove sono, li ho qua il computer, ed è una zona bassa dove c'è probabilmente anche fresco, più umidità rispetto, e quando lo accendo, prima faceva B e partiva, adesso fa B, sta sempre questo B e poi si ferma e poi riparte di nuovo, questo B dura 10 secondi. Ai. E così fa, e non parte, prima lo faceva, però io avevo capito l'inghippo e col phon lo riscaldavo un pochettino, facevo un po' di fresco qua, un po' di umidità, cioè, lo riscaldavo e poi quando lo riscaldavo un pochettino partiva, tutto a posto. Adesso invece stamattina sono andato a accenderlo, ho provato 2 o 3 volte a riscaldarlo, niente, adesso lo sto accendendo, fa si ferma, di nuovo, e ci sta un bel po', e quindi non parte più. No, quando c'è il bip continuo, semplicemente non sta riconoscendo una periferica, devi prendere e ricollegare quelle periferiche. Se c'è un bip continuo, il BIOS non sta riconoscendo la periferica. Ma la periferica cosa significa? Una qualsiasi, un hard disk, un masterizzatore, una RAM bruciata. Vabbè, siccome non parte, non mi dà un segnale nel monitor, cioè rimane acceso, fa fisso, no? Si ferma e riparte di nuovo. E sta così ore e ore, non parte, non vede niente nel monitor. Ho capito benissimo, è una cosa normale, è una cosa normale. C'è una periferica che si è andata per i cacchi suoi. Una bacchetta di RAM, oppure semplicemente c'è l'hard disk che se non viene riconosciuto dal BIOS. In quel caso lì normalmente si prende, si parte su del BIP continuo, la classica storia di RAM o bruciato o magari sta facendo falso contatto. Quindi è una questione di falso contatto probabilmente all'interno di qualche spinotto, e conviene aprire i portelli e vedere un pochino se c'è qualche capo che tocca o non tocca. Falso contatto se ti va bene, di solito le cose si bruciano nei PC, falso contatto se quando ti va bene. Il bip continuo è quando il BIOS non riconosce proprio la RAM. Tu lo apri, a PC spento, scaricati le elettrostatiche, altrimenti bruci tutto il resto che c'è, stacchi, disinserisci una a una le bacchette di RAM, le lasci una a una, vedi, quella anche quindi subito qua è bruciata. Quindi è una questione di RAM forse? La prima cosa che dovresti provare è quella. Non so quante bacchette c'hai, quanta RAM ha questo PC? No, è un 150 giga, adesso forse che abbia due bacchette RAM. E vabbè, quindi ne è una, aspettando le cose, sempre che non le puoi mettere a casaccio, devi mettere sempre sul connettore giusto. Quindi ne è una e provale alternativamente. Ma ne tolgo una e l'accendo? No, innanzitutto togli quella che è fuori dal primo slot, cioè nel secondo slot la togli e la accendi e vedi che succede. Se ti dà lo stesso difetto, allora quella che hai tolto dal secondo slot la metti al posto di quella che c'è nel primo slot e riprovi. Ho capito, le inverto praticamente, da una a una. Le inverti ma non le usi contemporaneamente? Sì, le inverto, le tolgo, le metto in uno stesso slot, poi le provo, prendo l'altra e poi la sposto. Così vedi se dipende dalle RAM. Perché il bip continuo di solito il BIOS e va per le RAM che sono andate da VHAP. E quindi possono andare in avaria questi? Voglia, è una cosa normalissima. È una cosa normalissima. No, perché questo lavoro qua lo stavo facendo in un certo periodo, ho detto ma c'è umidità, allora io ho capito l'inghippo che c'era fresco qui, prendo il foam e l'ho riscaldato, accendo e parte, fa e subito parte. E invece adesso quando lo accendo rimane con questo bip fisso per un 5, 6, 7 secondi, poi molla e poi rinnova la capo, non finisce mai, cioè è continuo, cioè. Quindi è probabilmente qualche inghippo di questo genere. No, vabbè, sono i soliti segnali che dà il BIOS. Sono i soliti segnali che dà il BIOS. Se non ci sono tutto bene, di solito sono le RAM che spartono, oppure sono semplicemente a me se a volte può capitare, ma di solito si bruciano, però prova a invertirle, perché almeno una funziona, spero che non si siano crepate tutte e due, mi sembra proprio una sfiga micidiale. Perché sono credite le RAM sono focosine. Io te ne porti a casa una cassa, costosine, che RAM ti avrai? Cioè, R3 a 1000 sì. No, non le ho viste, perché non è che me ne tenga molto, io sto parlando così, ma non è che sono un grande esperto di questo qua. Tu magari sei un big di questa situazione, anche Natalino, se tanto ne saprà anche qualche cosa. Se sfortuna un'altra è delle RAM antiche, allora lì le paghi come ha preso l'antiquariato. Ma se hai ormai DDR o DDR2, o 10 euro ti porta a casa 2 giga, te ne freghi. No, guarda, questo computer qua c'erano 2 anni e mezzo, questo che sto dicendo adesso. L'altro invece c'è un anno e un mese. Ecco, il bastione che mi stavi dicendo. Il bestiolino, quello è bellino, molto veloce, una bestiolina, penso che abbia fratello maggiore, va, è come se va, riprende Natalino, bianco per me. Già sono qui. Capito Natalino? Io già ho capito, già. Ma guarda che tu di queste cose ne sai molto più di me, io sono completamente al buio. Se ne sapessi quanto te, a chi sono, non le sai di no che fa vedere il computer. Sì, vabbè. Scusa, te ricostruisci, non ho capito, io sono completamente cieco. Non ne so queste cose, lo ammetto, io quando una cosa non lo so, però se tu mi parli di musica probabilmente qualche cosa la so e ti potrei dire, ma purtroppo questo non è il mio ramo e non ne so. Infatti, io il piano come te non lo so suonare. Però notate che adesso non è che voglia fare il boss del grande musicista, no, io non è che sono un grandissimo musicista, mi arrangio, mi faccio le mie cose, eccetera, eccetera. E però bisogna anche imparare, non è che uno va lì a prendere uno strumento musicale e non lo sa suonare. A me mi fanno pena, purtroppo ne conosco e sono un disastro. Però lo strumento bisogna impararlo, quindi uno lo impara, poi mano a mano poi diventa anche un piccolo professionista, piccolo. Infatti, ma è Gai secondo. Non c'è Gai, ma se lo impara non bravare mai. Rimasto Bighere, io già ce l'avevo la chitarra, ragazzi, ma l'ho spaccata in testa a mio fratello, capito? Non l'ho imparata per quello, perché l'ho spaccata in testa a Mario, quello che abita a Portottore, no? Sì, ma quando uno di strumento ne rompe uno, che ne ha uno solo, ne acquista un altro o fa in modo di averne un altro, se ha la passione di proseguire. Se tu non c'hai la passione è inutile, allora hai desistito perché non c'era questa grande passione. Io penso che ho fatto cambio per avere una chitarra da un tipo con una bicicletta da corsa. La bicicletta da corsa costava un bel di là, eppure siccome avevo la passione di dire, ha fatto cambio con una chitarra, un chitarra bronchiale, per imparare, ero un ragazzotto, Ho capito. Quindi capisci la passione che avevo per la musica, quindi ho voluto perdere, perché tanta era la passione per suonare che addirittura ho detto, ma io da questo caso di bicicletta avremo il vostro. Ho preso a uno di Sennori, ho dato la mia bicicletta con la sua chitarra in cambio, non so se mi spieghi. Già ti ha lasciato un buon tempo i due di Sennori, a fare chi come ti so, ma giusti. Eppure è successo, lì sono affari, però in qualche modo mi è servito quello, invece col ragionamento che ti ho fatto stamattina non era molto prolifero. Quelle sono cose purtroppo che non è che capitano molte volte nella vita, purtroppo succedono, deve sobbarcare. Ma speriamo che, dice che c'è un detto, che i monti non si incontrano, dice, ma le persone sì, vero? E si incontrano in prima o poi. E allora sono cavoli. E infatti. E non è per un cazzatura. È venuto l'infarto, ha visto? Molte volte noi ci adiviamo troppo. Ma ci aderiamo troppo, o non per di sé perché? Perché tu che ti senti di essere una persona seria, una persona equilibrata, una persona tranquilla, eccetera, quando ti senti ti senti truffato in qualche modo, usiamo questo termine perché mi sembra raggirato, plagiato, usiamo queste terminologie perché probabilmente sono molto appropriate, allora io vorrei sapere, queste persone che fanno questi lavori, perché non debbono essere presi e condannati, usando naturalmente un termine che potrebbe essere giusto probabilmente, quindi queste persone che non sono state, che sono state giudicate, effettivamente sgamate, e però non gli si può far nulla, la legge non è giusta, mi segui? Ehi, allora se mi dovevi avvisare di venito, se si mi era avvisato di mio zio, ma dai, la cosa era già andata. È questo che ti voglio dire, visto? Devo dire, l'ambasciata di Dio Benito, da lui, in cammino via sta controllare, dice io. Se uno la ciappava nei cuscini, via la girava qualcosa, subito ai racchetti, presento Franchi, e regalare la chiesa non avrebbe più fatto nessuno, e mandati lo conto di ricassucci alla cosa, alla famiglia a pagare, a chi so cassucci di lottate, e quindi sono i miei, i due, non credo. Quindi mamma fa chiesa, avrebbe preso tanto più di 2.000 franchi cassucci, ecco, 2.000 franchi conto alla famiglia a pagarli, in prezzo. Io gli siamo messi bene che gentaglia, non sono, sono senti, quando guardo il telegiornale mi viene voglia veramente, proprio io vorrei sapere come fa un genitore che viene ammazzato il figlio da queste persone qua e addirittura non viene condannato, viene non viene condannato, viene dato gli assegnano i domiciliari, lui non fa nessuna pena, niente, lui è tranquillo, dopo 3 anni finisce quello lì, cioè uno che ammazza una persona, il giudice, addirittura il processo, tutto quanto, volontario, omicidio volontario, non gli fanno niente, cioè a questi livelli qua, è gente in giro, addirittura i genitori hanno paura che questo si vendichi contro di loro anche, oltre ad averlo ammazzato il figlio. Ah, ho visto il signor Abisabio di Ovenito, in mano ai parenti, l'ha aiutato, anche il condannato. Cioè qua stiamo arrivando a un punto che chi sbaglia viene premiato, chi non sbaglia viene condannato, è il contrario, cioè tu rubi una gallina e cosa fanno? Ti danno l'ergastolo, ammazzi uno non ti fanno niente. A chi la legge è favore a rubi i banti, non ho compreso come c'è la situazione di tutto. Cioè sono cose veramente assurde, quando mai non devono prendere provvedimenti con queste leggi? Sì, sono stati un po' drastici in questo periodo, questo governo sta facendo qualche cosa per quanto riguarda, infatti hanno diminuito la verità, hanno diminuito questi ragazzi che gli incidenti, la notte, perché la patente, c'è qualcuno ancora, però hanno diminuito del 40%, pare, così hanno detto, queste multe di incidenti stradali, della notte su ubriaco, eccetera, eccetera, perché molti ad esempio hanno paura in percentuale, molti hanno paura di ritirare la patente, quindi stanno, effettivamente stanno riducendo parecchio. Però dico questo, ma perché si deve arrivare a questo quando un giovane, perché deve prendere la macchina del padre, correre come un pazzo? Il padre che cosa fa? Perché gliela dà la macchina? Ho detto che adesso non è che devono ridurre, no, con la nuova legge che uscita, se tu lo sai o non lo sai, non devono più bere, quelli che guidano non devono più bere, a chi non ti dà ciappa, ne devi più fredda nella macchina e te ne bida nella patente, e hai finito. quello che vedete c'è anche un altro discorso, perché ci sono delle persone che mature, grandi, eccetera, siamo presi dei ragazzini che bevono mezza birra e sono già cotti, non capiscono più un cavolo. Una persona grande che effettivamente si ferma in un bar e sta rientrando dal lavoro, un muratore, una persona grande di 50 anni, si beve mezza birra perché c'è un po' di secco, è entrato in un bar e si è bevuto mezza birra. Questa mezza birra il poliziotto carabiniere ti ferma per strada e ne che fa la posta ha fermato a te, ma guarda un po', ti ferma, lui c'è il palloncino e gli prende la patente, quello non può andare per lavorare ma quello non è un uomo ubriaco, quello è un uomo che non è, si è bevuto mezza birra, è tranquillissimo perché a pranzo si è bevuto una bottiglia di birra o un bicchiere di vino, è un lavoratore, che cosa vuoi cercare a questo qua poverino che è cotto, ma è cotto, cioè ci sono casi e casi, e allora è un'ingiustizia proprio incredibile, no? Secondo te? La legge non dice che tu sei cotto, la legge dice stato di ebbrezza, e cioè se tu bevi non puoi guidare, parla chiaro la legge, capito? Uno invece di bersi la birra si beve un'aranciata al bar, capito la cosa del discorso? E isso, un bitter si dice che non sia la cui, perché come bevi alcol ti portano, specialmente quelli professionisti, se c'è la patente come quella che ho io, oi, per tanta regia ne detacciata. Sì, no, ma lì sono d'accordo, però il discorso era un altro. La legge chi la fa? La legge non la fa la legge, chi la fa il governo, la legge la fa il poliziotto che è lì. Prima di fargli questo intervento, perché non lo fermi e gli parli un attimino, gli fai qualche domanda, eccetera, eccetera? Quando mai non ti accorgi se questo qui è in grado? Ma un poliziotto che c'è una certa età, non lo capisce uno se è un po' cotto o no. Quello deve lasciare perdere, poverino, quello c'ha famiglia, deve andare. Non è cotto, è la legge, è il poliziotto lì in quel momento, deve essere un po' più comprensibile nei confronti di questo disgraziato che non ha nulla, può viaggiare tranquillamente. Se questo che tu fermi, poliziotto, e se ne scende dalla macchina, gli chiedi patente del braccio, scende dalla macchina e non riesce neanche a scendersi dalla macchina, allora sono d'accordo anch'io, ma non vedi questa persona che guida, lui non è l'età, ma quando arriva a un certo punto e tu lo fermi e gli parli e gli dici prendere il braccio, quello se ne scende subito dalla macchina, infatti gli fa una domanda, parla, risponde in una certa maniera, esplicita, e quello non ha nulla, poverino, si è bevuto mezza birra lì al bar perché c'erano una sete tremenda e tu gli prendi la patente. Cioè lì è delinquente il poliziotto, a mio parere, anche se la legge è a suo favore, certo. Ma non è solo per la patente, no? E chi sequestra nel mezzo pure, è quello di sequestrare la macchina. Hai capito cos'è il discorso? La cosa grave è che ti prendono oltre la patente, ti prendono anche il mezzo. Si prendono per mezzo, certo, è tutto un compreso, ma perché tu a questo disgraziato che sta camminando, andando a casa, lo blocchi così? Ma non vedi mezza birra, ma chi è che non si beve mezza birra? Ma come fa a essere un ubriaco con mezza birra? Sì, da caso a caso ci può essere, perché può capitare che uno regge meno di un altro, ma mezza birra non ha mai ubriacato nessuno, proprio per non bere acqua si è bevuto tutta mezza birra, anche un bicchiere di birra non ti fa niente, però per le leggi sei ubriaco, ma ti rendi conto che non esiste, prima era 0,5 a 0,10, per prima una porta 0,5, adesso 0, ma 0, io se mi dovessi bere in questo momento che sono sobrio al massimo una bottiglia di birra tutta di colpo e mi fanno un controllo di riflessione, nel senso che una prova, io sono sicuro che non ho niente assolutamente. Tu come superi lo zero non puoi guidare, se tu te ne bevi un bicchiere non puoi già guidare, basta. Quindi per colpa di gente, la gente stronza, ci piangiamo noi, perché anche io sono d'accordo che non sono cotto, che sono capace di guidare, io anche cotto ho guidato, solo che io ho testa e vado piano, anche con tutti i gusti, che non mi reggivo in piedi, allora così, e vado la macchina senza freni, beh, non ho avuto manco un incidente né nulla, l'ho portato a destinazione, ero un gotto che pippa. bene qua. Solo che questi qua, come bevono un po' di alcol, in più sono anche drogati questi qui, però provocano gli incidenti questi giovani, non hai capito? Cioè, i giovani perché provocano incidenti? Perché sono inesperti di patente, perché ci hanno preso da poco e loro magari hanno fatto non solo birra, hanno fatto altro, prendono la pastigliettina eccetera, in discoteca e sono esausti. Ecco, è questo il problema, quindi io ce l'ho col discorso che il poliziotto, quando a una certa età, che sta rientrando al lavoro, non è un uomo cotto, è un uomo che si è fermato un attimino in un locale, si è bevuto con la sua birretta e si è andato a casa, non è cotto. Chi dovrebbero avere a che fare sono con questi giovani alle 4 del mattino, quelli devono combattere, non vi sono chi dà la via della patente qua vicino, disperato, poverino, si deve essere figlio presto per accompagnarlo. Guarda, è un disastro. Purtroppo la mattina ai tossici invece, non a quelli che si bevono una o due birre o semplicemente stanno velocemente andando a lavorare perché hanno pranzato, che hanno bevuto due bicchieri di vino a pranzo e non ci possono andare in teoria. Sì, Adrià, io non volevo entrare in quei miri perché è un campo un po' più vastino. Sì, i tossici, quelli sono i primi, purtroppo, però come si fanno per dire, addirittura arrestano un tossico e giammai si ribalta la cosa e arrestano il proprietario che è stato rubato. Oh, lì è tutto un discorso. No, perché come hanno fatto, guarda caso, in tutti gli incidenti, in quasi tutti gli incidenti, è sempre stato rilevato la presenza di tossicodipendenza, appunto di sostanze psicotrope, non è solo alcol, è tutto lì. Eh sì, perché il tossico è determinato anche a bere oltre ai suoi farmaci di routine anche altri farmaci, io li chiamo farmaci perché in questo modo sono farmaci questi altri, e quindi praticamente i tossici dovevano essere, ma perché esistono i tossici, cavolo? Perché esistono i tossici, perché sono persone deboli e non sanno come fare, invece di rivolgersi a chi di dovere stanno, frequentano compagnie sbagliate eccetera eccetera, questa è una cosa che sappiamo tutti quanti da bambini. Adria, ma io allora sono d'accordo con Natalino che ci voleva quella persona là. Lei lo stavo ascoltando, come la pensa Natalino? Come la penso? A me mi hanno quasi ammazzato, per esempio. A un altro amico mio l'hanno mezzo ammazzato, come si deve comportare io? In mano a Ribarenti l'avevo dato, oppure l'avevo fucilato e l'avevo mandato al burro contro delle cartucce alla famiglia, perché le cartucce che per ammazzarlo sono dello Stato, quindi sono mie, sono di Vittorio, sono le tue, e quindi allora non me li conto anche delle cartucce, una famiglia. Ci abbiamo sprecato per ammazzarlo. Vabbè, allora tutti i furti che abbiamo subito noi in officina, cosa dovevamo fare? Stare lì a fare i vigilantes o addirittura gli sceriffi, gli autosceriffi, prendere e sparare la gente, per fare una mazza, e poi fare proprio niente per la legge. Però è distretto, non puoi fare niente, hai visto che chi viene rapinato finisce in galera lui. E finisce in galera secondo come usa l'arma, giustamente. Se non la sa usare, non finisce in galera. Finisce che ammazza quello lì e gli dono le vasi di nuda. Capito? Però bisogna saperla usare l'arma, solo che se non sei tranquillo di testa non la sai usare. Perché non la puoi usare, sbagli, e allora ti arrestano a te, capito? Durante la rapina, caro Natalino, non si può essere tranquilli di testa, perché se si suppone che chi subisce una rapina, un gioielliere o la casca rapina al tabacchino, non sono gente che è andata a tirare segno o che ha a che fare col Far West, è chiaro che gli prende il panico, dove parte parte il colpo. Certo che a certa gente un'arma da fuoco mi avrei messo in mano. No, ma neanche a quelli che vanno al tiraffetto. Tu prova a raffinarne, si fa rubio di un cuore pure. Io sparo un colpo solo e tu non esci fuori dal negozio, a me non mi fanno un cazzo. Dai, se hai bisogno di me, che quando si fa un corso di tiro ti insegno soprattutto a tenere i saldi. Soprattutto ci sono i test psicologici, altrimenti non viene neanche ammesso. Vai, è fine la via. Cioè, non è come dici tu che andare al tiro non vuol dire sparare a un essere umano. È completamente una cosa diversa. Capito? Cosa ti voglio dire? E bisogna avere il fegato a ammazzare una persona. Non è così. Uno di quei gioiellieri o cosa, quelli lì è logico che vanno nel panico, ma ti pare che uno deve sparare o con colpi, cazzo, la bici burrua un negozio, lo dico. È logico che ti arrestano. Uno deve ammazzare dentro il negozio, non deve uscire lui dal negozio. Oppure se esce e tu l'hai mancato, non devi andare fuori dal negozio a spararlo. Non devi, sì, perché quello è impedire sulla vittima. È logico che ti arrestano. E allora vedi che un po' ragione lei a me, no, comunque mi riferivo direttamente agli Stati Uniti che gli fanno i test psicologici per il porto d'armi. Qua in Italia non è la minima idea perché non ho porto d'armi, non mi interessa se i test psicologici li fanno. Ma non lo so, magari tu mi senti di me, se me lo dici mi fa piacere, ma spero che ci siano, perché non è possibile che un demente, cioè uno psicolabile, abbia il porto d'armi. Non è questione di psicolabile, ti piglia rubanico, quando devi fare andare a bastone non è quando spari al tirassegno a un bersaglio, è diverso, e ti prende il panico. Capito? Invece uno deve essere freddo, però deve avere un carattere come il mio, per essere freddo in qualsiasi circostanza. Capito là? Cioè uno si deve dare la misura, tirargli un tiro a pezzo e deve crepare lì, un colpo solo devi tirare. E non ti fanno un cazzo. Come sta rampolando lì, ripete Vittorio. In qualche modo condivido alcune cose di Natalino Adria, perché se ad esempio tutti questi che sono stati rapinati, gioiellieri eccetera, soltanto qualcuno ha reagito e è andato a segno, è però gli hanno dato 3 anni, poi condizionale eccetera eccetera, per difesa personale, insomma si è salvato in qualche modo, però certamente, perché questo da poco, 2 anni fa era successo con i gioiellieri, però intanto ha passato il padre, il figlio che l'hanno arrestato in 3 anni, deve fare 3 anni, e il figlio è rimasto solo con questa attività, praticamente che gli serve tutto il padre, c'è anche questo discorso da fare. Sì, è vero che mi stanno chiamando, è vero che sono situazioni balorde. Scusate un attimino. Ok, sì, penso che sia verticale. Scusate, un attimino, mi hanno chiamato Adrià. Prego, prego, avanti Natali. Natali, sicuramente bisogna trovarsi, sì, in quelle situazioni lì. Io speravo non trovarmi mai, però chi cerca di difendersi ha sempre l'appiglio. Perché, probabilmente l'aggressore finisce steso, o semplicemente solo ferito. Invece chi si vuole difendere finisce in galera, è rovinato per sempre. E non mi sembra una cosa tanto giusta. No, perché noi nella Costituzione non siamo come l'America, che l'americano deve potersi difendere, è scritto nella Costituzione. Quindi tu la pistola gliela devi dare se lui è una persona per bene. Perché prima andavi senza chiedere, non ti chiedevano niente per la comprare al supermercato la pistola. No? Sino pure un mitra. Adesso devi aspettare che facciano gli accertamenti un paio di giorni e poi la danno lo stesso in America. Però in America lo sentisce la Costituzione, invece di su Gossiga e Novi, ha fatto in modo che bloccassero tutte le armi. Hai visto quel gioiello che c'era con la faccia sfacciata dai banditi? Eh? Quello lì, poverino, ha sparato perché gli hanno fatto la faccia così. però quello lì, la pistola ce l'aveva per bellezza, ma ti pare che un guerriere doveva avere una calibro 22, che me ne avrei fatto la vergogna. E lui si trovava ai parabutu guaiti. Quello non era buono, manca a sparare quell'uomo, poveraccio. Sì, sì, ne abbiamo già parlato a suo tempo di quel poveraccio lì. L'ha massacrato la faccia, ma è stato innanzitutto nella butta. E qua c'era, c'era il giocattolo e l'ha usato addirittura male. È per quello che io sono ancora fermo che sulla cosa che chi questi attrezzi è meglio che li sappia usare. Cioè, come avere un accendino e tu non sai come accenderti la sigaretta. Tutto lì. Infatti, a parte di aver fatto test psicologici a Napro, che li hanno introdotti da poco come questi test, però prima non ce n'erano, i test dello psichiatra, proprio dello psichiatra più vero, se no proprio non parleranno. A voi avevo fatto un corso di tiro a segno, che non è la stessa cosa, intendiamoci, è. Non è la stessa cosa di sparare a una persona, perché uno lo deve avere di carattere, essere freddo, capito? Se non sei freddo di carattere, ti pisci sotto. Guarda, il tiro a segno è una cosa indispensabile. Prima di tutto perché ti insegna a non uccidere una persona, è semplicemente a bloccarla. Mi dai conferma? No, invece la devi ammazzare, perché secondo la legge italiana, cazzo, ma altrimenti sì, se lo ferisce non lo ammazzi, sei colpito, ti condanneggiane. Ma tu devi morire dentro al negozio, però devi sparare per ammazzare, gli devi dare un colpo solo, non sparargli 4 o 5 colpi, perché se tu spari più di un colpo stai infierendo contro la vittima e ti arrestano per quello. Urco, a questo punto devo dire che se io per difendermi semplicemente gli sparo sulla mano sua armata del delinquente un colpo solo, gli spappolo la mano e sono intorto io, non esiste. Cazzo no, se quello campa ti denuncia per non ti basta, noi non è giusto a pagarlo per sfidi permanenti e cose, ti denuncia ti rovina, se campa. Lui ha ammazzato. Non sono tanto sicuro questa cosa, la voglio verificare in un secondo momento. Non sono tanto sicuro di questa cosa qua, questa è una minchiata, che cazzo. Se l'ammazzo va bene, se invece lo finiscono non va bene. Vorrei essere sicuro di mio, sbirciando da qualche parte. Che cazzo, non è possibile una porcata del genere. Ah, è vero che non l'hai fatto il militare, se avessi fatto una qualche guardia da militare allora magari avresti potuto parlare e avresti detto bisogna ammazzarlo per forza. Non è vivo, lì ammazzà e non esiste a ferirlo, che quello poi in tribunale ti porta il trascino in tribunale e ti fa sbagliare tutti i danni. Si pagherà che non magari la attentata alla rapina, no? Ma è un caso, dopo ti trascina in tribunale e gli devi pagare i danni. Ascolta, Ramo dei Poveri, ti dico una cosa, non c'è un cacchio da fare mettere, bisogna portarsi 30 anni di porcheria al prezzo quando ci sono le nuove normative. Non ho capito, noi siamo in uno stato libero, noi siamo nel Far West, non si dice in realtà lì, ognuno spara, ammazza, vasi, non si dice. Sto dicendo le cose come sono per la legge, capito, è così. Miri, a quel gioielliere, l'hanno condannato. L'hanno condannato a capato un momento di sicurezza in Dio. Si vede invece l'ha riammazzato con un colpo solo, a conca, anzi, vuole sparato in bocca proprio. Così che non so perché fa subito. Ha capito? No, quel gioielliere lì ha avuto solo ha fatto solo lo sbaglio di seguirlo fuori dalla sua proprietà, la sua rivolta e sbagli e scaricargli il caricatore addosso. cosa che a un certo punto effettivamente si chiama in un'altra maniera, far west. Effettivamente a questo punto te la giro a te, la spara di moca dentro il negozio, ma non prenderlo, inseguirlo per tutta la città a revolvere altro. Non si segue nessuno, a parte che in un centro pubblico non puoi sparare, già, hai visto se gli ha in che vinto il tuo marzo. Capito? Tu in città non puoi sparare, se tu vai a macchina dentro il negozio con un colpo solo, però uno massimo due colpi li puoi tirare per ammazzarlo, però cazzo uno deve saperla usare la pistola, sparalo in bocca così lo so e crepa subito. E vedrai che non ti fanno nulla. Bisogna trovarsi sì, in certe situazioni, bisogna trovarsi sì, nei panni di un giardiniere o del classico tabacchinaro che deve subire decine di furti all'anno, bisogna trovarsi nei loro panni, anche perché la maggior parte delle volte sono anche delle donne che non sanno neanche come cavolo difendersi. Si è trovato in quella situazione, suppongo ci sia un panico enorme eccetera eccetera, una cosa logica, non è tanto facile, ma capire che quando tu prendi la licenza, la concessione per il tabacchino non devi fare un corso di sopravvivenza. No, devi imparare solo a vendere le sigarette e basta, capite? Però quella che reagisce così è gente esasperata, che non è in sé, è esasperata da tutte le rapine e furti che ha subito. Alla fine reagisce, però reagisce in un modo scorretto. No, alla fine, sempre reagisce in un modo scorretto, semplicemente perché non è il loro mestiere. E infatti sono gente esasperata, non ragiona con la cognizione di causa che deve avere, capitolare. Si caga sotto, prende, gatto, bum bum bum bum, e tira via le cose. E non mi dici di un danneggiare, magari quello se ne non lo becchi neanche una volta e se ne fugge. E tu lo perseguiti, coglione, gli spari fuori dal negozio. Già fuori dal negozio, se hai sbagliato in partenza non puoi sparare perché puoi ammazzare gente in accento. E tu pensa a rotole vaganti eccetera eccetera, hai visto proprio ieri o avanti che è stata cambiata la sentenza di quel poliziotto là, l'omicidio volontario, omicidio colposo, però semplicemente che lui aveva sparato, aveva beccato quel cavolo del tifoso, però secondo me la pistola lui doveva tenersela in tasca, che cazzo sparavi, lo faceva sparare, all'altezza dell'uomo. Lui dice gli ha fatto il colpo, ma un po' strana la storia. È stato preso dal panico e ha sparato per quello. Sì, erano presi dal panico anche i professionisti, pseudo professionisti. Comunque, altezza d'uomo cosa ha fatto? Vabbè, ok. Mettiamoci il panico. Ma perché doveva sparare a una distanza di centinaia di metri? A chi stava sparando? Agli uccelli? Ah, domandava Ed. A parte che col puntano non sono né tenace, non sei sicuro di sparare. Quindi già non sbaglio quello. Beh. Io non so come le usano le armi questa gente, e a dire che all'Accademia poi imparano come si usa, ti insegnano il gatto. Poi sicura non ce ne vuole mai perché può saltare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. L'unica cosa è non avere il colpo in canna, oppure se c'hai il colpo in canna, sei sicuro, tu sicuro non mi vai punito, perché può sparare accidentalmente, ugualmente può sparare. Quindi la sicura non se la buona non le dico io. Esatto, comunque vedi che quello lì sicuramente non è stato preso dal panico perché non era implicato in quello che stava succedendo. C'era una rissa tra tifosi, lui ha sparato dall'altra parte di un'autostrada. Così, cosa voleva fare? Tirar segno, che cacchio è? Quindi se queste cose succedono a chi si suol dire professionista, diciamo in teoria sono stati poi chiusi. Chiedete cosa può succedere a un poveraccio di tabacchinaro che si deve solo difendere. E il colpo in canna non si mette mai, quel poliziotto ha sbagliato perché aveva il colpo in canna, ha capito, se no la pistola non sparava, perché per richiamare l'attenzione di qualcuno spara in aria, capito, non all'altezza dell'uomo. Evidentemente allora c'è stato un incidente che lui aveva il colpo in canna anch'ivi, e è stato uno sbaglio, come se ne ha colto la pistola e gli è partito il colpo. Che basta poco a partire il colpo con le pistole. Ma se premi poco a poco tu è passi, compreso. Basta che ti ultimo, che inciampi, può succedere che faccio. Quindi è pericolosissimo mettere il colpo in canna e seguire qualcuno con la pistola o il colpo in canna. Sì, ma chi l'ha urtato questo qua che non era, non stava facendo parte della vita, era l'altra parte di un'autostrada. Lui ha semplicemente visto la scena della rissa dall'altra parte dell'autostrada. Lui ha puntato l'arma e ha sparato al tetto all'uomo, a sangue freddo. Tutto lì, niente necessario a rompere le palle. E allora quello è un delinquente, se è vero che ha sparato così. Capito? Allora è omicidio volontario, non è colposo. Colposo è quando ti parte il colpo accidentalmente. Infatti è stato passato da volontario a colposo, non so perché. Non so se tu avanti hanno fatto la sentenza. Prima era volontario perché era evidente che era volontario. Se tu non sei implicato in quello che stai facendo, non sei in un'operazione di polizia, non c'è nessuno intorno a te che ti sta spintando, eccetera, eccetera, tu spari in mezzo alla folla alla cacchia di cane. Non per le spalle, però io quello avrei sinceramente condannato, scusami. E se spari in mezzo alla gente che si azzuffa? Spara in alto, non in mezzo a, in mezzo lì a altezza d'uomo. Infatti io sono propenso che questo era coda di gamba e sarà altezza d'uomo così, oppure gli è successo veramente l'incidente che magari è inciampato e gli si è partito il colpo così, capito? Sono più propenso a credere quella, che se no uno è proprio quella di capo. A parlare così tanto senza nessun motivo mi sembra un po' strano, ma deve essere partito di capo uno faccio così. Beh, diciamo che è abbastanza incredibile. Infatti è un po' incredibile che uno prenda e spari in mezzo alla folla senza motivo, quando non è implicato. Si è parlato di deviazione di pali, deviazione della rete, di una rete di divisorio dell'autostrada, eccetera, eccetera. Fate fare però che sta parlando in fronte a un poveraccio che poi non c'entrava una massa. Ma sono i casi della vita. Vittorio, sei rientrato? Sì, a Vittorio la chiamato la moglie. In che senso? Avrà chiamato la moglie per mangiare, magari. Ah, capo, no, sì, ha detto che sta facendo un bianco, ma aveva detto che stava andando a fare il carico. E andò buona leva. E beh, cosa vuoi ti dire? Ma è strano che un poliziotto si comporti in questa maniera. Forse era pure di testa. Perché se no è da considerare che ha avuto veramente un incidente, nel senso che gli è partito il colpo accidentalmente dall'arma. Solo che uno hanno pure copicata così. Mi sembra un po' strano, addestrato com'è uno. Beh, ormai l'inchiesta è durata un bel po' di mesi, o anni. Da anni. Prima era stato incriminato per omicidio volontario e mo avanti è stato legato a colposo. Un volontario c'è una cosa grave, che vuol dire che voleva fare per forza. Colposo vuol dire che avevano trovato qualcosa che dava almeno un minimo dubbio. Infatti bisogna avere le motivazioni perché hanno indotto la corte a formulare questa sentenza qua di omicidio colposo. a portare i 3 cappelletti della telecinesa imbusciata non serve, in quel caso non serviva un cacchio, né sparare in alto, no, forse sparare sì in alto, non alto il calore. E sta tranquillo, sparando in alto, non beccavi né paletti, né reti che potevano deviare, niente. Sparando in alto si sente solo il rumore. E no, ma la sorte che può far fare qualche aereo, non lo butto. Che cazzo. È sempre pericoloso, invece se uno non ce l'ha è meglio, perché se ce l'ha la usi. La usi. Ma erano tutti quei ragazzi che stavano cavando gli occhi. I tifosi stavano trovando gli occhi, non li puoi sparare in faccia, non stavano ammazzando a nessuno, stavano ammazzando fra loro. Infatti, hai un telefonato a domandare in forza, ha bisogno di manganella, qui c'è a livello. Avrei chiamato semplicemente una pattuglia per arrivare dall'altra parte dell'autostrada a vedere cosa stava succedendo, inutile fare lì a far casino. Ma è stato preso la voglia di risolvere chissà che cosa, sicuramente non ha sparato in aria, ha sparato al terzo uomo e la deviazione ha messo per forza un essere umano. Ma mi pare strano che un poliziotto abbia volontariamente puntato la pistola al terzo uomo e abbia sparato così a sangue freddo. Mi risulta un po' strano, a meno che uno non sia impazzito in questo momento. Ma le faranno le cose psichiche, penso, no? I test gli faranno a questa persona qua. E quindi vedono se è pericoloso oppure no. Applausi. Lui non era neanche impiccato nell'azione, non c'entrava niente, era dalla parte opposta dell'autostrada. Non è nel peccato, forse è stato lì in mezzo al casino, abbiamo capito, distrazione, ansia, tacchi vari, decisioni da prendere in millesimi di secondo, ma lui era dall'altra parte della strada e si stava guardando il panorama. E infatti a me mi sembra strano che questo abbia preso. Agis, voglio aiutare questo in canna, Agis. Come l'ha tirata fuori e ha sparato. Capito? Boh, a meno che non sia stato uno di quei classici, non vuol dire niente, di quei classici tipo Magnum P.I. o così, posso dire, rispetto alle Callaghan. Ma è vero, così, che si è scappato il fuoco e puh. Se non ha tolto la pistola alla tasca per puntarla in alto e gli è partito il colpo al terzo uomo, tutto lì. E allora, ma perché è una persona destrata? Se non sbaglio, che ha fatto lui di mettere il colpo in canna? Se no la pistola non sparava, la capitola, non sparava, cioè non c'è la pallottola nella canna, dentro la canna, non spara, anche se il grilletto batti. Chi va a rubare a fare, no? Se non vedo lo vuoi di fare a miudi. E allora questo qua allora c'aveva anche il canale alzato, scusa per succedere una cosa del genere. Sto ipotizzando e l'inquirente ha ipotizzato che ha tolto la pistola per sparare in alto, dopo l'avvertimento per sedare momentaneamente la vista perché non la potevano sedare perché c'erano delle reti divisorie nell'autostrada. Non potevano fare niente, intervenire per niente. Voleva stare il casco colpo in aria. Poi c'era il colpo in canna e il letto e il cane alzato anche. Come se l'ha tolta la tasca per alzarla verso l'alto, per un colpo d'avvertimento, e invece ha pigliato e per sfiga gli ha partito al petto all'uomo. E infatti oppure ha armato il cane al terzo uomo, però come è andato giù gli è partito il colpo. Partitola. Invece di puntarla a terra per armarla, nuova, ed stava alzandola per andare a sparare in alto, magari gli è partito il terzo uomo. Sicuramente è successo così. Poi bisogna pensare anche bene. Che ha messo a fuoco il pistola. No, non sono esattamente l'ultimo ritrovato la tecnologia. Sono dei pezzi di ferro che hanno imparato a casaccio, tecnologia zero. No, come? Va quelle sono tecnologiche, quelle che hanno adesso, perché sono doppia azione, funzionano anche come revolver quelle, oltre che come pistola automatica, capito? Sono altamente tecnologiche quelle che hanno adesso. Altamente un par di spade, qualunque cosa meccanica non è altamente tecnologica, è una cosa meccanica, ma fa un colpo per farla. Quella che spara 15 colpi. Ecco, ma se gli dai una sottomanda, parte un po' di cosa tecnologica. Io c'è la sua tecnologia nella costruzione di quelle fatte, è risultata la migliore che c'è, e ce l'hanno anche gli americani quella lì. È risultata la migliore che c'è in tutto il mondo, lo conosci solo. E chiudiamoci, essere stata la peggiore, oh signor. Ce l'hanno anche gli americani, questi speciali. Farà anche nell'acqua. Ah? E spara anche se ti cade nell'acqua. E quella spara, perché non entra acqua dentro. Di quanto è nella sigillata. No, l'acqua entra tranquillamente. È semplicemente il percussore che non ne frega niente dell'acqua. No, no, ci sono le pistole proprio che manco per il cazzo sparano senza acqua. Quella lì cade in acqua e spari lo stesso. L'unica pistola che conosco io che non spara in acqua è quella con la pietra focaia. E la beretta 92S. E perché vedo di succedere nell'acqua? Non scorre il carrello, che gli fa? Ma che farà? Non torna indietro il carrello per scaricare il mosso. No, il gas root. Non è così. Hanno fatto parecchie prove, risultato la pistola migliore che esista. Gli americani a mollare la Colt 45 automatica per una pistola straniera ce ne vuole. Eppure hanno quella lì e la Glock pure. Però quella italiana è migliore, di tutto quanto. Anche la Glock è fatta di gomma. Di gomma? Sì, è una pistola per signorine. No, io conosco quelle di ceramica, quelle che sono gli attentati, che sono più caruti. Ah, dove? Io me ne vado a letto che sono stanco. Ok, ci sentiamo alle prossime, quelle di anche per me. Miau miau. Miau miau, cazzo, roba di ambulanti. No, no. Ciao, no, che per il settore così. Mia mia, che me ne vado a curicarmi sul stacco. Sono mezz'ora, smagliendo. Buonas noches.